fantasia si sporca di realtà. Troppi colpi alla tua sensibilità. Hai lottato a lungo invano ed oramai temi un altro fallimento e già lo sai. Quasi totale, comodo, molto più comodo, a sue farsi al mare.